Respiro. Buon pomeriggio e ben ritrovati da Laura Bettini per questa puntata di Respiro, puntata forse finalmente di primavera. Siamo apparentemente infatti fuori dal tunnel dell'inverno e tutti cominciamo a pensare di stare all'aperto, di fare qualche viaggetto, grande o piccolo che sia. Pensiamo alle vacanze di Pasqua magari o a qualche gita fuori porta. Ebbene, anche viaggiare è un'attività in cui si può essere ecosostenibili e solidali. Se ne è parlato nei giorni scorsi alla fiera Fa la cosa giusta di Milano e allora vi proponiamo il nostro viaggio nei viaggi. Cominciamo con l'associazione Turismo Responsabile. Al nostro microfono è Maurizio Davoglio, che ne è il presidente. Nella nostra concezione l'interesse da tutelare prioritario non è quello del viaggiatore, ma è quello della comunità che ospita i viaggiatori nel proprio paese, nel proprio territorio. Voi operate sul territorio nazionale o anche all'estero? Facciamo entrambe le cose. Siamo partiti soprattutto con un occhio di riguardo e una priorità sul sud del mondo, Africa, Sud America e Asia, ma col passare degli anni ci siamo resi conto che i principi e le regole del turismo responsabile valgono in qualunque contesto, in qualunque paese, anche nei paesi a economia turistica sviluppata come l'Italia o la Francia, la Spagna, eccetera. Per cui oggi abbiamo circa metà dei nostri soci orientati al sud del mondo e un'altra metà orientati a offrire accoglienza e ospitalità in Italia sulla base dei principi e le regole del turismo responsabile. Chi sono i vostri soci? I nostri soci sono tutte le ONG italiane che hanno dei progetti di turismo, che sono 13 in tutto, e sono 18 piccoli tour operator e agenzie di viaggio che propongono viaggi e soggiorni di turismo responsabile, alcune grandi associazioni nazionali come ad esempio la Lega delle Cooperative, l'ARCI, il WWF, il CTS, l'Associazione dei Comuni Borghi Autentici d'Italia e altri, qualche impresa privata e tantissime associazioni e cooperative, per un totale di circa 90 soci, tutte persone giuridiche. Come si fa del turismo responsabile? Che cosa bisogna essere attenti a non fare o a fare quando si fa il turista responsabile? Ma, partendo da questa centralità degli interessi della comunità ospitante, si fa in modo che il viaggio sia organizzato in accordo con la comunità locale che ospiterà il gruppo dei viaggiatori, facendo in modo che questa comunità sia protagonista in tutte le scelte relative allo sviluppo turistico del loro territorio e che possano beneficiare di tutte le ricadute economiche, sociali, imprenditoriali e occupazionali che derivano dal turismo, per far sì che venga ridotto quel fenomeno che in inglese si chiama leakage, che è la perdita di guadagno dei territori turistici. Oggi nei viaggi diciamo convenzionali alla comunità locale resta non più del 20% di quanto il turista spende per il viaggio. Noi con i nostri viaggi riusciamo a raddoppiare questa percentuale, portandola a oltre il 40%. Per quanto riguarda chi viaggia, essere attento a questo aspetto costa di più, costa uguale, non c'è alcuna differenza? Molti credono di risparmiare con i viaggi di turismo responsabile, ma non è sempre così, per una serie di ragioni. Innanzitutto i nostri organizzatori di viaggio non riescono a utilizzare quelle forme di acquisto dei voli che sono invece accessibili ai grandi tour operator. Noi quindi dobbiamo necessariamente ricorrere alle tariffe ordinarie, quelle pubblicate, mentre semmai i concorrenti hanno delle altre possibilità più vantaggiose sotto il profilo economico. Inoltre la nostra politica di non strozzare i fornitori locali fa sì che pratichiamo dei prezzi equi con gli albergatori, con i ristoratori, con il trasporto e pertanto può capitare che un nostro viaggio finisca per essere costoso quanto quello di un concorrente dell'industria turistica convenzionale. Lo sviluppo sostenibile è il pane quotidiano di Borghi Autentici d'Italia, associazione che raduna comuni sotto i 5.000 abitanti e che fa parte di ITR, dell'Associazione Turismo Responsabile. Qui non si tratta solo di turismo, ma anche di commercio, di ristrutturazioni edilizie. Sentiamo Antonella Ferrante. Attualmente dell'associazione fanno parte più di 120 comuni. Al suo interno ci sono anche i consorzi, province, hanno province e anche unioni di comuni, tipo l'ultima che è entrata è l'Unione Sarda dei Comuni. L'associazione non ha il compito di dare un marchio, ma è proprio quella di fare dei progetti all'interno del territorio che puntino alla valorizzazione. Possiamo fare un esempio per far capire agli ascoltatori? Allora, un esempio già è quello di Comunità Ospitali e quindi la valorizzazione del borgo attraverso il turismo. Altro tipo di progetti può essere Rinascimento Urbano, che punta alla valorizzazione del borgo attraverso la riqualificazione urbana. Far parte dell'associazione vuol dire avere alle spalle una struttura tecnica e quindi delle persone qualificate che aiutano i vari comuni nella progettazione e nella realizzazione dei vari progetti. Attualmente stiamo portando avanti un altro progetto che si chiama Botteghe dei Borghi Autentici, e cioè la commercializzazione all'interno dei comuni che fanno parte dell'associazione dei prodotti tipici del borgo. Che ne so, tipo il prodotto tipico del comune di Corte Emilia, che è in provincia di Cuneo, che è la nocciola, viene venduto a Melpignano, che è il comune in provincia di Lecce, e viceversa. Quindi stiamo creando una sorta di catena come posso chiamarla, un punto vendita proprio all'interno dei negozi, un corner dedicato proprio ai comuni che fanno parte dell'associazione Borghi Autentici. Far parte dell'associazione, questo è una sorta di garanzia di qualità, di certificazione, nel senso che so che questo prodotto è del comune di Corte Emilia, è tipico, viene prodotto in una determinata maniera. E quindi l'associazione garantisce questo. Un altro progetto, Borgo Intelligente. Borgo Intelligente è un progetto che punta alla rivalorizzazione del borgo attraverso l'autonomia energetica. È appunto un esempio tra i nostri comuni a Melpignano, che ha creato l'illuminazione a LED. Noi non parliamo per forza di borghi come accezione di borgo medievale. Per noi i borghi sono quei posti che hanno delle tipicità, delle caratteristiche uniche. Io porto sempre l'esempio di Tresigallo, in provincia di Ferrara. Non è un borgo del Cinquecento, non è un borgo medievale, ma Tresigallo ha la caratteristica di essere una città di nuova fondazione. Quindi è una città tipica del Novecento, è stata progettata negli anni 30-35 da un ministro dell'agricoltura, Rossini, che ha deciso di far diventare il comune, il borgo, una città piena di servizi e che rispettasse un po' l'architettura mussoliniana. E questa è la struttura che trova a Tresigallo. La caratteristica di questo comune è di essere uno dei pochi comuni italiani che ha mantenuto queste caratteristiche. Un turista che andrà in questi borghi, noi lo chiamiamo cittadino temporaneo. Per noi cittadino temporaneo vuol dire che andrà in questo borgo, che vivrà con la gente del posto, ha un tutor dell'ospite che è una guida del borgo. Cioè, questo è il principio che portiamo avanti, è quello di far diventare i nostri ospiti cittadini temporanei, di farli sentire a casa e di condividere la cultura del posto. Lavora nel settore da 10 anni Enrico Marletto dell'Agenzia Viaggi Solidali di Torino. È un settore in crescita, questo ci dice, che presto avrà anche bisogno di certificazioni. Diciamo che in generale il turismo responsabile è nato come un turismo nei paesi in via di sviluppo, perché le prime proposte erano magari pensate da organizzazioni non governative, erano forse più simili a campi di conoscenza, campi di lavoro, cioè c'era anche una parte di volontariato. Ormai a tutti gli effetti sono delle vacanze, cioè il nostro target cliente è il 15-16% dei turisti che vanno all'estero, che hanno voglia di andare in un modo tra virgolette intelligente, nel senso che hanno voglia di farsi una bella vacanza, ma conoscendo anche la realtà del luogo negli aspetti non solo che vengono normalmente presentati ai turisti. Quindi comunque li coccoliamo e li trattiamo. L'unica differenza forse è che anche nella comunicazione cerchiamo di far capire che il turismo non è un usa e getta di 15 o 20 giorni di servizi, come spesso si tende a far pensare. Il turista potrebbe quasi dimenticare il cervello a casa, no? Perché tanto c'è il tour operator che pensa tutto. Noi pensiamo a tutta l'organizzazione, però vogliamo che la vacanza sia anche un incontro, un'esperienza. Lo vogliono i nostri turisti, per fortuna, e tant'è vero che abbiamo una redemption di oltre il 50% dei viaggiatori che poi sono fidelizzati a questo modo di viaggiare, che sia con noi, con altri tour operator, però capiscono che è un turismo più ricco di altri in realtà. è un turismo d'incontro. Noi, il nostro payoff sotto al marchio è il turismo dal volto umano, nel senso che l'aspetto dell'incontro è fondamentale, però la qualità del servizio lo è altrettanto per noi. Parlando di volto umano, oltre a quello dell'incontro, che altri volti ha il vostro turismo? C'è sicuramente molta natura, perché abbiamo anche ad esempio col WWF alcuni programmi che si chiamano i viaggi della biodiversità, dove l'aspetto naturalistico chiaramente è più sviluppato. In Cina stiamo lanciando una nuova itinerario nelle terre dei panda con il WWF. E poi sicuramente anche l'aspetto, diciamo, della solidarietà e dell'incontro con associazioni impegnate sul sociale. Il settore è in crescita? Per quanto riguarda noi sì, quella cifra che davo all'inizio del 16-17% nasce da una ricerca di mercato fatta dall'ISNART lo scorso anno, da cui risulterebbe che appunto il 17% del mercato dei turisti che vanno all'estero è interessato al turismo responsabile. Da questo a dire che ci sia il 17% che lo fa veramente, ne passa purtroppo ancora molto, nel senso che anche noi abbiamo bisogno di comunicarlo molto. Non è che qui poi dopo salteranno fuori quelli che dicono di fare il turismo responsabile e poi non lo sono tanto? Come si fa a distinguere uno bravo da uno meno bravo? Allora, noi in Italia stiamo cercando di darci uno standard, perché poi c'è un problema in questi casi sempre di dare garanzie anche al consumatore e nel nostro caso anche ai referenti locali. E quindi lo standard dovrebbe essere poi questo certificato di garanzia, diciamo, dell'eticità della qualità e dell'eticità della proposta. Non esiste ancora, anche perché è giovane il fenomeno rispetto al commercio equo, uno standard a livello europeo, transnazionale, come può essere Fair Trade nel mondo del commercio equo. Speriamo di arrivarci, però stiamo lavorando per quello. Di turismo sostenibile si occupano anche netglobers.com e vacanzefaidatte.com. Lo dicono i nomi stessi, siamo su internet e quelli di cui parliamo sono in pratica dei motori di ricerca turistica per chi si organizza il viaggio da solo. Qui ci sono informazioni su operatori e organizzazioni di turismo responsabile selezionate dai gestori, ma ci sono anche le segnalazioni dei globetrotters, di coloro che appunto viaggiano da soli. Fabrizio Mariani di Vacanze Fai da Te. Proponiamo solo iniziative scelte, valutate attraverso un questionario, che in maniera da garantire la loro sostenibilità. Quale, diciamo, principio dovremmo sempre tenere presenti quando si viaggia per essere sostenibili? Ma secondo me il rispetto, quindi il rispetto delle popolazioni ospitanti, delle popolazioni locali, soprattutto magari quando andiamo in zone più povere del mondo, e poi il rispetto all'ambiente. Interviene il nome? Lorena, ciao a tutti. No, anche e soprattutto secondo me utilizzare, diciamo, i prodotti locali, quindi andare a comprare nei mercati locali, utilizzare i piccoli ristorantini gestiti da locali o anche alloggi, appunto, responsabili. Gli utenti immagino siano soprattutto giovani? Siamo abbastanza transgenerazionali, sì, giovani che si trovano meglio, però comunque abbastanza, raccoglie un po' tutte le generazioni, tutte le fasce. Abbiamo gente anche di una certa età, i 60-70 anni, che viaggia in maniera indipendente, ci scrive molto. Ma dove guadagnate? Su cosa? Allora, noi guadagniamo da tutte le associazioni, alloggi, tour operator che, diciamo, si pubblicizzano sul nostro sito, ossia vengono inseriti in questo motore di ricerca dove poi gli utenti possono trovare la loro vacanza su misura. Restando in una logica di solidarietà, immagino non sia particolarmente oneroso per questi albergatori pubblicizzare le loro... No, i prezzi sono veramente bassi, anche per promuovere il turismo responsabile. Noi ci teniamo moltissimo a questa cosa, quindi per il momento stiamo tenendo prezzi veramente... tipo per una scheda pubblicata costa 30 euro all'anno. E se si vogliono pubblicare più schede, il prezzo scende a 10 euro ogni scheda pubblicata in più. Quindi sono prezzi che uno può anche provare a mettersi sul sito e vedere come va durante l'anno. Quindi se viene contattato, comunque è una buona vetrina, diciamo, per farsi conoscere. Bene, tutto per questa puntata di Respiro, la potete riascoltare come sempre su internet nella pagina dedicata a questo programma. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto, un buon pomeriggio su Radio 24.